cielo blu che tu non hai, tutte le rose, tutte le cose che vuoi, piccolo fiore dell'amore. Io ti aspetterò, un giorno sì, un giorno no, sul mare ancora. L'inverno non mi sposterà, ti giuro mai. Non piangere più, piccolo fiore. Io già ti sognai tanti anni fa. Avevi gli occhi lucidi. Io ti baciai e ti passò. Io ti porterò il mondo blu, il cielo blu che tu non hai, tutte le rose, tutte le cose che vorrai, piccolo fiore dell'amore. Tu non sai cos'è il sole che apre le braccia per cercare di cancellare all'alba ogni oscurità. Non puoi sfiorire, piccolo fiore. Io già ti incontrai. Avevi gli occhi lucidi, io ti baciai e ti passò. Io ti porterò il mondo blu, il cielo blu che tu non hai, tutte le rose, tutte le cose che vorrai, piccolo fiore dell'amore. Io ti aspetterò, un giorno sì, un giorno no, sul mare ancora. L'inverno non mi sposterà, ti giuro mai. Non piangere più, piccolo fiore.